Hai le carte, passi, gioca di tuoi assi, punta pure ciò che hai, pensi troppo a cosa fai, perché a quelli come noi serve spazio ed aria, sai, troppo poco quel che c'è, troppo poco anche per te. Tutti quelli del...